E il grande portone era socchiuso. E la gente premeva, tutti così stretti e stipati, piede su piede, corpo contro corpo, così che la massa si muoveva come un solo uomo. Anche Wang Lung fu afferrato da altri che si precipitavano alle sue spalle, costringendolo a unirsi alla folla. E volente o nolente, fu trascinato avanti insieme a questi, benché lui stesso non sapesse quale fosse la sua volontà, perché non riusciva a credere a quel che stava succedendo. Fu così trascinato oltre la soglia della grande casa, coi piedi che quasi non toccavano terra, tanto era stretto in mezzo alla folla, e tutti intorno, come l'ininterrotto ruggito di bestie arrabbiate, si levavano le urla della gente. Fu trascinato da una corte all'altra, fino alle corti più interne, e degli uomini e delle donne che avevano vissuto nella casa non vide nessuno. Era come un palazzo morto da lungo tempo, se non fosse stato per i primi gigli che fiorivano tra le rocce dei giardini e i fiori dorati che all'inizio della primavera sbocciavano sui rami nudi dei primi alberi. Ma nelle stanze il cibo era posato sui tavoli e il fuoco era acceso nelle cucine. Quella folla conosceva bene le corti del ricco perché superò in fretta le prime, dove vivevano i servi e gli schiavi e dove erano le cucine, e si diresse verso le corti interne, dove i signori e le signore avevano i loro raffinati letti e dove c'erano le loro casse, laccate di nero e rosso e oro, le loro casse piene di abiti di seta, dove c'erano tavoli e sedie e rotoli dipinti alle pareti. E la folla si buttò su quei tesori, afferrandoli e disputandosi ciò che compariva in ogni cassa o armadio appena aperto. Vestiti e coperte, tende e piatti passavano di mano in mano e ogni mano cercava di impadronirsi di quel che un'altra teneva e nessuno si fermava per vedere che cosa davvero avesse. Solo Wang Lung, in mezzo alla confusione, non prese nulla. In tutta la sua vita non aveva mai preso quel che apparteneva a un altro e non poteva certo farlo adesso. Restò così, dapprima nel mezzo della folla, sospinto da una parte e dall'altra, e tornato poi in qualche modo in sé, si fece strada con insistenza verso un lato e alla fine si ritrovò al margine di quella moltitudine e là rimase, trascinato lentamente come un piccolo mulinello sul bordo di una pozza attraversata da correnti. Ma era ancora capace di vedere dov'era. Era sul fondo della corte più interna, dove abitano le donne dei ricchi. E la porta posteriore era semiaperta, la porta che i ricchi utilizzavano per le loro fughe in tempi come quello, chiamata perciò la porta della pace. Attraverso quella porta erano sicuramente scappati tutti quel giorno e stavano nascosti nelle strade lì attorno ad ascoltare le grida nelle loro corti. Ma un uomo, forse a causa della sua stazza o del pesante sonno in cui l'aveva fatto piombare l'ubriachezza, non era riuscito a fuggire. Wang Lung si imbatté improvvisamente in lui, in una stanza interna dove la marmaglia era entrata e poi uscita, e ora l'uomo, che aveva trovato rifugio in un nascondiglio e non era stato trovato, credendosi solo uscì con l'intenzione di fuggire, e così Wang Lung, che aveva cercato di staccarsi dagli altri ed era rimasto solo, si imbatté in lui. Questo era un tipo grande e grosso, né vecchio né giovane, ed era stato disteso a letto, sicuramente con una donna graziosa, perché il suo corpo nudo spuntava dalla veste di raso color porpora che lo cingeva. I grandi rotoli gialli di carne erano addirittura doppi sopra i seni e la pancia, e nelle montagne delle guance gli occhi erano piccoli e infossati come quelli di un maiale. Quando vide Wang Lung, si mise a tremare tutto e gridò come se nella sua carne fosse stato infitto un coltello. Wang Lung, che non aveva con sé nessuna arma, avrebbe potuto ridere a quella vista, ma il tizio grasso cadde in ginocchio e batté il capo sulle piastrelle del pavimento e implorò: «Salva una vita! Salva una vita! Non ammazzarmi! Posso darti dei soldi, molti soldi!» Fu la parola «soldi» che all'improvviso infuse nella mente di Wang Lung un'affilata chiarezza. Soldi! E lui ne aveva bisogno. E di nuovo fu come se una voce gli dicesse chiaramente: soldi! Salvare la bambina! Le terre! Esclamò allora con una voce aspra che lui stesso non sapeva di avere nel petto: allora dammi i soldi! E l'uomo grasso rialzò il busto, singhiozzando e farfugliando, cercò con le dita la tasca della giacca e allungò le mani gialle, grondanti oro. E Wang Lung, tese la falda della sua giacca e lo ricevette. E di nuovo ordinò, con quella strana voce che pareva quella di un altro: «Dammene di più!» E di nuovo le mani dell'uomo si tesero, grondanti oro, e lui disse fregnando: «Non è rimasto più niente, e ho solo la mia disgraziata vita!» E scoppiò a piangere, e le lacrime scorrevano come olio lungo le sue guance pendule. Mentre lo guardava tremare e piangere a quel modo, Wang Lung all'improvviso lo detestò come non aveva mai detestato nulla nella vita, e con l'odio che montava dentro di lui gridò: «Via dai miei occhi, o ti ammazzo come un grosso verme!» Questo gridò Wang Lung, benché avesse il cuore tanto tenero da non riuscire a uccidere un bue. E l'uomo si allontanò di corsa come un cane bastardo e scomparve. A quel punto Wang Lung rimase solo con l'oro. Non si fermò a contarlo, ma lo infilò nella giacca sul petto, uscì dalla porta della pace e, passando per piccoli vicoli secondari, tornò alla sua baracca. Stringeva sul petto l'oro che era ancora caldo del corpo dell'uomo, continuando a ripetersi: «Torneremo alle nostre terre, domani torneremo alle nostre terre». 15. Non erano passati che pochi giorni e a Wang Lung sembrava già di non essersi mai allontanato dalle sue terre, e nel suo cuore era stato in effetti così: con 3 pezzi d'oro aveva comprato dei buoni semi del sud, chicchi di frumento e riso e grano turco, e senza badare a spese aveva comprato semi mai piantati in precedenza, sedano e loto per il suo laghetto e grandi ravanelli rossi che si cuociono in umido con carne di maiale per farne un piatto della festa, e piccoli fagioli rossi profumati. Con 5 pezzi d'oro comprò da un contadino un bue per arare il campo e lo fece prima ancora di raggiungere la sua terra. Vide l'uomo che arava e si fermò, e tutti si fermarono. Il vecchio e i bambini e la donna, per quanto fossero ansiosi di arrivare a casa e ai campi, e guardarono il bue. Wang Lung era stato colpito dal collo forte e aveva notato subito il vigore con cui la spalla tirava il giogo di legno, ed esclamò: «Quel bue non vale niente. A quanto lo vendi in oro argento? Vedi che non ho nessun animale, sono in difficoltà e sono pronto a prendere qualsiasi cosa». E il contadino rispose: «Ah, preferirei vendere mia moglie piuttosto che il bue. Ha appena 3 anni ed è nel pieno delle forze». E continuò ad arare senza fermarsi. Wang Lung sentì allora che di tutti i buoi del mondo doveva avere proprio quello, e disse a Olan e a suo padre: «Come vi pare quel bue?» Il vecchio lo scrutò e disse: «Sembra una bestia ben castrata». E Olan disse: «A un anno più di quel che dice». Ma Wang Lung non rispose niente, perché si era fissato su quel bue per il vigore con cui tirava il giogo e per il pelo morbido e chiaro e gli occhi nerissimi. Con quel bue poteva arare i suoi campi, e con quel bue legato alla sua macina poteva frantumare il grano. Andò allora dal contadino e disse: «Ti darò abbastanza per comprarne un altro, e anche di più, ma questo bue lo voglio». Alla fine, dopo aver discusso e battibeccato, e dopo aver fatto finta di volersi allontanare, il contadino cedette per una volta e mezzo quel che sarebbe stato il valore di un bue da quelle parti. Ma mentre lo guardava, per Wang Lung l'oro all'improvviso non era niente, e lo mise nella mano del contadino, osservandolo liberare il bue dal giogo. Poi lo condusse via con una corda infilata attraverso le narici, il cuore ardente per la gioia di quell'acquisto. Quando raggiunsero la casa, trovarono la porta divelta e il tetto senza più copertura, e all'interno le zappe e i rastrelli che vi avevano lasciato non c'erano più, ma erano rimaste solo le travi nude e le pareti di terra, e persino le pareti di terra si erano assottigliate per via delle tarde nevi e delle piogge cadute durante l'inverno e all'inizio della primavera. Ma dopo il primo momento di sorpresa, a Wang Lung non importò niente di tutto questo. Andò in città e comprò un nuovo aratro di buon legno duro, e 2 rastrelli e 2 zappe, e stuoie per coprire il tetto fin quando non avessero avuto nuovamente la paglia del loro raccolto. Poi, quella sera, rimase sulla soglia della sua casa a guardare la campagna, la sua campagna, che se ne stava nuda e fredda dopo il gelo dell'inverno e pronta per essere seminata. Era primavera piena e nel laghetto poco profondo le rane gracidavano sonnolente. I bambù all'angolo della casa ondeggiavano lentamente sotto la brezza mite della sera e nel crepuscolo poteva vedere indistintamente la frangia degli alberi sul margine del campo vicino. Erano peschi, coperti di eleganti fiori rosa e salici da cui spuntavano delicate foglioline verdi. E dalla terra a riposo, in attesa, si levava una lieve foschia argentea come la luce della luna e aderiva ai tronchi degli alberi. All'inizio, e poi ancora per parecchio tempo, Wang Lung aveva creduto di non voler vedere nessun essere umano, ma di voler rimanere solo con la sua terra. Non andava alle altre case del villaggio e quando i sopravvissuti alla fame dell'inverno venivano da lui, li apostrofava con mal garbo. Chi di voi ha divelto la mia porta? E chi ha preso il mio rastrello e la mia zappa? Chi di voi ha bruciato il mio tetto nella sua stufa? E loro scuotevano la testa con fare innocente, e uno diceva: è stato tuo zio. E l'altro diceva: no, con tutti i briganti e i banditi che vagano in questi brutti tempi di carestia e di guerra, come si può dire che l'uno o l'altro abbia rubato qualcosa? La fame fa di ogni uomo un ladro. Poi Ching, il suo vicino, strisciò fuori dalla sua casa per vedere Wang Lung e disse: durante l'inverno una banda di briganti ha vissuto nella tua casa e ha predato il villaggio e la città a più non posso. Corre voce che tuo zio li conosce meglio di quanto non dovrebbe conoscerli un uomo onesto, ma chissà cosa è vero di questi tempi. Non oserei accusare nessuno. Quell'uomo non era davvero altro che un'ombra. Tanto la sua pelle aderiva alle ossa e tanto radi e grigi erano diventati i suoi capelli, anche se non aveva ancora raggiunto i 45 anni di età. Wang Lung lo fissò per un po' e all'improvviso, preso da pietà, disse: qui ve la siete passata peggio di noi. Cosa avete mangiato? E l'uomo sospirò e disse, sussurrando: cosa non ho mangiato? Avanzi raccolti per strada come cani, quando mendicavamo in città e abbiamo mangiato cani morti, e una volta, prima di morire, la mia donna ha fatto bollire una minestra con della carne che non ho osato chiedere cos'era. Sapevo solo che non aveva il coraggio di uccidere e se la mangiavamo voleva dire che l'aveva trovata. Poi è morta perché aveva meno forza di me per resistere e dopo che è morta ho dato la bambina a un soldato perché non riuscivo a vederla affamata e addirittura morire. Si interruppe, rimase un po' in silenzio, poi disse: se avessi un po' di semi coltiverei di nuovo qualcosa, ma non ne ho. Vieni, esclamò bruscamente Wang Lung e lo trascinò in casa per la mano e gli ordinò di reggere la falda stracciata della giacca e vi versò dei semi dalla scorta che aveva portato dal sud. Gli diede semi di frumento e riso e cavolo e disse: domani verrò ad arare la tua terra con il mio buon bue. Allora Ching scoppiò improvvisamente a piangere e Wang Lung si strofinò gli occhi e gridò come se fosse arrabbiato: pensi che ho dimenticato quando mi hai dato quella manciata di fagioli? Ma Ching non riuscì a rispondere e si allontanò, senza più smettere di piangere. Fu una gioia per Wang Lung scoprire che suo zio non era più nel villaggio e nessuno sapeva dove si trovasse esattamente. C'era chi diceva che fosse andato in una grande città e c'era chi diceva che fosse finito molto lontano con sua moglie e il figlio e nella sua casa, al villaggio, non era rimasto più nessuno. Le bambine, cosa che Wang Lung ascoltò con grande rabbia, erano state vendute, prima la più graziosa, per il prezzo che potevano ricavarne, e persino l'ultima, che aveva i segni del vaiolo, era stata venduta per una manciata di monetine a un soldato che passava di lì diretto verso qualche battaglia. Allora Wang Lung si diede con immensa energia a lavorare il suolo e odiava persino le ore che doveva trascorrere in casa per mangiare e dormire. Preferiva portarsi nei campi il suo rotolo di pane e aglio e mangiarlo lì, mentre progettava e pensava: qui metto i piselli dagli occhi neri e lì le pianticelle di riso. E se durante il giorno era troppo stanco, si stendeva in un solco e là, con il buon calore del suolo contro il proprio corpo, dormiva. E in casa Olan non restava inattiva, con le sue mani legò saldamente le stuoie alle travi e prese della terra dai campi e la mescolò con l'acqua e riparò le pareti della casa e ricostruì il forno e riempì i buchi del pavimento dove la pioggia l'aveva portato via. Poi un giorno andò in città insieme a Wang Lung e insieme comprarono letti e un tavolo e 6 panche e un grande calderone di ferro e poi comprarono per il proprio piacere una teiera di argilla rossa con sopra un fiore nero, disegnato con l'inchiostro e 6 ciotole per accompagnarla. Alla fine andarono in un negozio di incenso e comprarono un dio della prosperità di carta da appendere alla parete sopra il tavolo nella stanza centrale e comprarono anche 2 candelieri di peltro e un braciere per l'incenso di peltro e 2 candele rosse da bruciare davanti al dio, spesse candele rosse di grasso di vacca con una sottile canna nel centro a fare da stoppino. E a quel punto Wang Lung pensò alle 2 piccole divinità nel tempio della terra e tornando a casa andò a darvi un'occhiata. Oh, era uno spettacolo pietoso. Le facce senza più lineamenti lavati via dalla pioggia e l'argilla dei loro corpi nuda che spuntava attraverso i brandelli dei vestiti di carta. Nessuno aveva prestato la minima attenzione a loro durante quell'anno terribile e Wang Lung li guardò tetro e soddisfatto, e disse ad alta voce, come quando si parla a un bambino che viene punito: questo succede agli dèi che fanno del male agli uomini. Eppure, quando la casa fu nuovamente se stessa, con i candelieri di peltro scintillanti e le candele di rosso vivo accese, e la teiera e le ciotole sul tavolo e i letti ai loro posti, di nuovo con qualche coperta e nuova carta incollata sopra il buco nella stanza dove lui dormiva, e una porta nuova era appesa sui cardini di legno, Wang Lung ebbe paura della sua felicità. Olan si ingrossò del prossimo figlio. I suoi bambini facevano le capriole come cuccioli dorati davanti alla soglia e il vecchio padre sedeva, appoggiato al muro meridionale, e dormicchiava e sorrideva nel sonno. Nei campi le giovani pianticelle di riso spuntavano, verdi come giada e persino più belle. E i fagioli sollevavano dal suolo le teste incappucciate ed era rimasto ancora abbastanza oro per nutrirli fino al raccolto, se erano moderati nel mangiare. Guardando il cielo azzurro sopra di lui e le nuvole bianche che lo attraversavano, sentendo il sole e la pioggia in giusta proporzione sui campi arati come sulla propria pelle, Wang Lung mormorò con riluttanza: devo mettere un po' di incenso davanti a quei 2 nel tempietto. In fondo hanno potere sulla terra. 16. Una notte che Wang Lung giaceva con sua moglie, sentì qualcosa di duro, grande come la mano chiusa di un uomo fra i suoi seni, e le disse: cos'è questa cosa che porti sul tuo corpo? Vi pose sopra la mano e trovò un fagotto avvolto nella tela, duro, e che tuttavia si mosse quando lo toccò. All'inizio lei si ritrasse bruscamente e quando poi Wang Lung lo afferrò per strapparglielo, lei cedette e disse: «E va bene, guardalo allora se devi». E prese il cordoncino che lo fissava al suo collo e lo spezzò e gli diede la cosa. Era avvolta in un pezzo di straccio che lui tolse. Nella sua mano cadde all'improvviso un ammasso di gioielli e Wang Lung li guardò stupefatto. Era una quantità tale di gioielli che nessuno avrebbe mai sognato che potessero trovarsi tutti insieme: gioielli rossi come la polpa delle angurie, dorati come frumento, verdi come giovani foglie in primavera, trasparenti come acqua che sgorga dalla terra. Quali fossero i loro nomi, Wang Lung non lo sapeva perché in tutta la sua vita non aveva mai sentito i nomi e visto i gioielli nello stesso tempo. Ma tenendoli nella mano, nell'incavo della sua mano bruna e scura, capì dal luccichio e dallo sfolgorio nella stanza semibuia che stringeva fra le dita una ricchezza. Con la mano immobile, ebbro dei colori e delle forme, muto, insieme alla donna, guardava fisso ciò che teneva. Alla fine, senza fiato, le sussurrò: «Dove? Dove?» E lei sussurrò di rimando adagio: nella casa del ricco. Deve essere stato il tesoro di una favorita. Ho visto un mattone che non aderiva perfettamente alla parete e mi sono avvicinata come per caso, così che nessuno potesse vedermi e pretenderne una parte. Ho tolto il mattone, ho preso quel che luccicava e me lo sono infilato nella manica. Come facevi a saperlo? Chiese ancora in un sussurro Wang Lung, pieno di ammirazione. E lei rispose con quel sorriso sulle labbra che non era mai nei suoi occhi: dimentichi che ho vissuto nella casa di un ricco. I ricchi hanno sempre paura. Una volta, in un anno cattivo, ho visto briganti precipitarsi attraverso il portone della grande casa e le schiave e le concubine e persino l'anziana padrona, correvano di qua e di là e ognuno aveva un tesoro da infilare in qualche nascondiglio già pronto. Perciò sapevo cosa vuol dire un mattone smosso. Caddero nuovamente in silenzio, fissando quelle pietre meravigliose. Poi, dopo un lungo intervallo, Wang Lung inspirò profondamente e disse con decisione: «Un tesoro così non si può tenere. Deve essere venduto e messo al sicuro, nella terra, perché nient'altro è sicuro. Se qualcuno lo venisse a sapere, saremmo morti il giorno dopo, e i gioielli li porterebbe un brigante. Devono essere messi nella terra oggi stesso, o questa notte non dormirò». Mentre parlava, avvolse nuovamente le pietre nello straccio e le legò strettamente insieme con la cordicella. E aprendo la giacca per infilarle nella tasca, sul petto vide per caso il viso della donna. Era seduta a gambe incrociate in fondo al letto, e le labbra aperte e il viso pesante che non esprimeva mai niente, ora teso leggermente in avanti, tradivano un desiderio soffocato. «Bene, cosa c'è adesso?» chiese guardandola con stupore. «Li vuoi vendere tutti?» chiese lei in un sussurro roco. «E perché no?» rispose lui meravigliato. «Perché dovremmo avere gioielli così in una casa di terra?» «Mi piacerebbe tenerne due per me», disse lei con voce triste e impotente, come chi non si aspetta nulla, tanto che Wang Lung ne fu toccato, come se uno dei suoi figli avesse desiderato un giocattolo o un dolce. «Ah, questa poi!» esclamò stupito. «Se potessi averne due», continuò lei umilmente, «due piccoli, magari due piccole perle bianche». «Perle?» ripeté lui stupefatto. «Le conserverei, non me le metterei», disse, «le conserverei soltanto». E abbassò gli occhi e si mise a torcere con le dita un pezzo della coperta dove si era allentato un filo e attese paziente, come chi nemmeno si aspetta una risposta. A quel punto Wang Lung, senza comprendere, guardò per un istante nel cuore di quella creatura spenta e fedele che per tutta la vita aveva faticato in compiti che non le procuravano nessuna ricompensa e che nella grande casa aveva visto altre indossare gioielli che lei non aveva nemmeno mai tastato con le dita. «Potrei tenerle ogni tanto in mano», aggiunse come articolando in sé il pensiero. Qualcosa che non capiva allora lo commosse e prese i gioielli dalla tasca sul petto e tolse la pezza che li avvolgeva e glieli porse in silenzio e lei scelse fra i colori scintillanti. La sua mano ruvida e bruna rigirava delicata e lenta le pietre fin quando trovò le due levigate perle bianche. Le prese, riavvolse gli altri gioielli e glieli restituì. Poi prese le perle e strappò un angolino di stoffa della sua giacca e ve le avvolse e le nascose tra i seni e fu contenta. Ma Wang Lung la guardò a bocca aperta e comprendendo solo in parte, tanto che quel giorno e nei giorni seguenti gli capitava di fermarsi a osservarla dicendosi: «Beh, questa mia donna avrà ancora le due perle fra i seni, immagino». Ma non la vide mai tirarle fuori e nemmeno ne parlarono mai. Quanto agli altri gioielli, rifletté a lungo e alla fine decise di andare alla grande casa per vedere se c'era dell'altro terreno da comprare. Andò così alla grande casa e all'entrata in quei giorni non c'era nessun custode a rigirarsi i lunghi peli del neo, manifestando il suo disprezzo per quelli che non potevano passargli davanti ed entrare nella casa dei Huang. Le grandi porte invece erano chiuse e Wang Lung vi batté sopra con entrambi i pugni e nessuno venne. Delle persone che camminavano per la strada levarono gli occhi e gli gridarono: «Ah, puoi continuare a battere a lungo. Se l'anziano signore è sveglio, forse verrà. E se c'è una cagna randagia di una schiava, forse aprirà, se ne avrà voglia». Ma alla fine sentì lenti passi avvicinarsi alla soglia, lenti passi che si fermavano e riprendevano a scatti. E poi sentì tirare lentamente la sbarra di ferro che teneva chiuso il portone. E poi il portone cigolò. E una voce rotta sussurrò: «Chi è?» Allora Wang Lung rispose a voce alta, nonostante la sorpresa: «Sono io, Wang Lung!» Allora la voce disse stizzosa: «E chi sarebbe questo maledetto Wang Lung?» E dal tono ingiurioso Wang Lung capì che c'era l'anziano signore in persona, perché quello era il tono di uno abituato a rivolgersi a servi e schiavi. E Wang Lung rispose perciò più umilmente di prima: Signore padrone, sono venuto per un piccolo affare, non per disturbare vostra signoria, ma per parlare un po' di affari con la gente che serve vostro onore. Allora l'anziano signore rispose, senza aprire ulteriormente la fessura attorno alla quale muoveva le labbra: Che sia maledetto quel cane! Se n'è andato molti mesi fa e non c'è più.